Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti gli On Air. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD Natural Prestige, come il primo che è andato in onda. Titolo? Secret Garden. La vostra esperienza durante la registrazione, quali sono le linee di guida che hanno tracciato questo primo disco? So che parte del lavoro è stata fatta in Germania. Allora, tutto è nato da Filippo, che ha composto prima dei canovacci e poi ci ha presentato le parti. Insieme abbiamo lavorato sugli arrangiamenti e il risultato è quello che sentite. Poi, in effetti, il lavoro è passato in Germania sotto mani più esperte, diciamo. Sì, diciamo che con Oliver, che come sappiamo è il leader della grande band che si chiama Everon, ci siamo conosciuti 3 anni fa in Germania tramite un'amica che abbiamo in comune. Certo. Comunque una volta ha sentito il brano, uno dei brani dell'album, Icocromata, insomma, che gli è piaciuto moltissimo, è rimasto folgorato, possiamo dire. Bene. E allora ci siamo messi d'accordo, lui era disponibilissimo a cantare, anche suonare tastiere, anche le chitarre, cioè ha partecipato insomma anche lui, però diciamo che veramente insomma mi ha fatto piacere che ha partecipato anche lui. Insomma. Infatti in questo brano c'è la doppia voce, c'è anche lui che canta, quindi nel brano che abbiamo appena sentito. Sì, la prossima canzone per i nostri ascoltatori. Moon in the Daylight. Siamo sempre con gli Oneira, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti e che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i giornalisti hanno segnalato. Allora, lascio la parola a Filippo perché lui che segue le public relations. Vai, allora. Infatti, comunque io da quello che insomma ho visto abbiamo delle critiche veramente molto molto positive da tutto il mondo, insomma Giappone, Russia, Canada, ci sono delle importanti radio station, diciamo come per esempio l'International Prog Rock Show, che fanno sentire addirittura tre brani insieme. Questo sito dove? E questo è un sito di Quebec, Canada. Ah, in Canada. In Canada. E poi diciamo che dall'Ungheria, dal nord Europa, da tutte le parti comunque. E in particolare devo dire che un ragazzo russo mi aveva scritto, era disperato perché non aveva un soldo in tasca praticamente, era disperato, mi fa: ti prego se è possibile mi mandate un CD, oppure io conosco tanta gente, mi dicevo così, e sono veramente, mi piacerebbe avere il vostro CD, insomma. E io l'ho mandato perché visto che insomma aveva certo. Insomma, no, aveva non dovevi questo... scusa mandare fine. Non mi hai chiesto il permesso. Vabbè. Comunque, in ogni caso, allora niente, insomma, poi tante riviste, e poi proprio in particolare adesso oggi ho visto che siamo anche nella rivista Metal Hammer di gennaio, insomma, di quest'anno. Tutto qui, insomma, ci sono tante critiche buone, insomma, ecco. Prossima canzone. Sea Dreams. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con gli Oneira.